24 mattino. Ma Simone, perché il coronavirus? Che cosa? Cosa che scaturisce nel coronavirus? Cioè, veramente non si può sentire, ma davvero? Boh. Certo che sentire Di Maio dire virus è simpatico, fa ridere. Però tutti questi radical chic che dicono media, media, è latino, no? Quindi non c'è tanto da ridere. Coronavirus. Vabbè, ma sì, poi qualcuno ci scrive, guardate che si dice così in inglese, solo che non è una parola inglese, insomma, quindi se anche gli inglesi dicono coronavirus, non è che dobbiamo dirlo noi, però insomma, si scherza un po', non è quello il punto, certo, non è, diciamo, il contenuto della questione. Le 7:20 minuti, 45 secondi. La seconda parte di 24 mattino di questo martedì 18 febbraio, la parte dedicata alla rassegna stampa. Se questo raffreddore non mi fa finire in debito di fiato prima, cerchiamo di tirare fino al GR delle 8, eh? Finirò come Darth Vader a respirare. Allora, 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. La vostra voce, mi raccomando, fatecela sentire, anzi fatemela sentire, anzi mandate la vostra voce a supporto della mia. E seguiteci in diretta su Facebook se volete. Dunque, come sempre, le prime pagine dei quotidiani. Un'occhiata prima alle prime pagine dei quotidiani, a partire dal Sole 24 Ore, la cui apertura è dedicata all'operazione della quale vi abbiamo raccontato anche in GR24, della quale abbiamo parlato prima alle 6:30, ossia il lancio dell'offerta d'intesa su UBI Banca, l'istituto guidato da Messina, lancia un'offerta pubblica di scambio volontaria per ogni 10 azioni UBI. 17 azioni di nuova emissione, premio al 27,6%. Aspettiamo la reazione di mercato. Si parla anche del governo che non decolla l'agenda per il 2023, c'è lo scontro sul mille proroghe. Il governo rimane in bilico, è il titolo del Corriere della Sera. L'apertura è dedicata appunto al tema decreti sicurezza e non solo quelli. La Stampa, Renzi, Salvini, un nuovo governo. Italia Viva si mette di traverso anche sui decreti sicurezza e rilancia sul memorandum per la Libia. Ma la bella foto di apertura sulla Stampa è dedicata alla siccità. In Italia non piove da 2 mesi, dice il quotidiano. Governo eppur si muove. Prime mosse per archiviare le norme Salvini, ma manca ancora l'accordo. La ministra Lamorgese costretta al rinvio, scrive La Repubblica. Il Messaggero, decreti Salvini, governo spaccato. Il Fatto Quotidiano, scandali e disastri dove sgoverna Salvini. Ed è una sorta di inchiesta, o meglio, un riassunto di quello che succede nelle regioni governate dalla Lega. Libera immigrazione, il titolo del giornale, nuova grana in maggioranza, sempre sui decreti sicurezza. Aboliteli è il titolo del manifesto. Se il governo riapre i porti, la Lega li chiude, è quello di Libero. Maxi sconto alla fidanzata di Conte sotto la lente dell'antiriciclaggio è il titolo della Verità. E usate fragilità, dice Avvenire, il titolo è sulla polemica sull'aborto e su Salvini. Iniziamo come sempre però da qualcosa di laterale, da qualcosa di diverso, e come spesso ci accade in questo periodo, non ce ne vogliano gli ascoltatori, come dire, fedeli del Movimento 5 Stelle a Roma. Noi ce l'abbiamo con Virginia Raggi, registriamo uno stato di fatto, lo stato di fatto nel quale versa la capitale dal lato dei rifiuti in particolare e nella fattispecie. La cronaca di Roma del Messaggero, pagina 35, e ci porta sulle tristi vicende ancora una volta dell'AMA, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, ma soprattutto sulla triste vicenda delle casse comunali. Perché? Perché il comune dovrebbe riscuotere la Tari, solamente che questo in sostanza non avviene. Il flop riscossione è un caso, scrive Stefania Piras a pagina 35 del Messaggero, e i revisori dicono che i conti comunali sono a rischio. E guardate che i numeri forniti da Stefania Piras sono veramente impressionanti. Nella città eterna ci sono quasi 400.000 utenze fantasma, ossia famiglie, ditte, attività commerciali che non risultano nei database dell'azienda, dell'AMA, e quindi vanno considerati evasori totali. 400.000 evasori totali della Tari nella capitale. Negli ultimi 6 anni le utenze fantasma hanno comportato un buco di 1 miliardo di euro nelle casse capitoline. E negli ultimi 2 anni i morosi della Tari, quindi gli utenti censiti, cioè non fanno parte di questi 400.000, sono gli altri, sono quelli che non hanno pagato, ma debitori, hanno creato un ulteriore buco di 189 milioni di euro. Di questi il Campidoglio ha recuperato solo 9,1 milioni di euro, pari a circa il 6% del buco nero. Cioè, chi non paga ha, diciamo, un 94% di possibilità di farla franca, stando al sistema di riscossione del comune. E questo spiega anche tante cose, spiega anche la condizione di rifiuti nella capitale. Visto che siamo sui temi ambientali, beh, rimaniamoci, perché ve le ricordate tutte le scene che sono state fatte sul gasdotto TAP? Tra le tante cose, ottobre del 2018, lo ricorda Michelangelo Borrillo a pagina 34 del Corriere della Sera, ottobre del 2018, appunto, i manifestanti contrari al gasdotto che arrivarono a bruciare le bandiere 5 Stelle, delusi dal movimento che per voce di Alessandro Di Battista aveva promesso nella campagna elettorale delle ultime elezioni politiche che in 15 giorni di governo sarebbe stato cancellato il TAP. Quel Trans Adriatic Pipeline, che cos'è, appunto, quel tubo, quell'enorme gasdotto per il quale poi lo stesso Di Battista fu costretto a chiedere scusa ai pugliesi e il premier Giuseppe Conte ad accollarsi le responsabilità. Se c'è proprio da dare una colpa, disse, datela a me. Ma qual è il punto? Il punto è che adesso il gasdotto TAP sta prendendo il via. Quell'infrastruttura da circa 4 miliardi di euro che porterà il gas dall'Azerbaigian in Italia e in Europa grazie a 4.000 chilometri di tubazioni, di cui gli ultimi 878, il TAP vero e proprio in Grecia, Albania e Italia, è pronta con la partenza della nave Castoro 6 il 10 febbraio scorso alla volta dell'Albania. Il TAP può dirsi pressoché completato nello sbocco italiano, quello rappresentato dal microtunnel che da circa 900 metri a largo passa sotto la spiaggia di San Foca, comune di Melendugno. E qua lo ricorderete, le proteste degli attivisti contro l'espianto degli ulivi e poi Michele Emiliano che anche ci si era messo contro. Che cosa succede? Che in realtà adesso il tubo nella spiaggia di San Foca c'è, ma è 16 metri sotto la sabbia, quindi non lo vede nessuno. E già l'anno scorso, quando i lavori non erano nemmeno completati, ma il tunnel era già stato scavato, la spiaggia era piena, regolarmente, con tutti i suoi ombrelloni. E quest'anno, scrive appunto Michelangelo Borrillo a pagina 34, se ne avrà la controprova. Il tema sempre energetico e sempre delle battaglie ambientali, chiamiamole così. Sono battaglie ambientali che però mettono a rischio posti di lavoro. Il tema dello stop alle trivelle. Ci porta il Sole 24 Ore a pagina 8 su tutto questo. Siamo nelle pagine di economia e imprese. Il pezzo lo firma Ilaria Visentini e ha a che fare con la proroga di altri 6 mesi del blocco delle attività di ricerca degli idrocarburi. Prorogare di altri 6 mesi il blocco delle attività di prospezione e ricerca di idrocarburi significa prolungare una traversata nel deserto che ha già fiaccato le aziende più forti ed estromesso le più deboli, con fatali ripercussioni sull'occupazione e sugli investimenti programmati. A parlare è Paolo Maggioli, presidente di Confindustria Romagna, che lancia questo allarme di fronte alla previsione contenuta nel decreto mille proroghe passata ieri alla Camera di rinviare di ulteriori 6 mesi, da agosto 2020 a febbraio 2021, la stesura del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, che ha come contraltare l'estensione a 30 mesi del blocco delle trivelle iniziato con il primo governo Conte. La sostanza, ci racconta Ilaria Vesentini, è che si rischiano 3.000 posti di lavoro. Una pausa. Mattino. Certo che tra il governo giallorosso e il campionato giallorosso ce ne sono di analogie. Tra un po' saremo tutti e due fuori dall'Europa. No, speriamo di no. No, speriamo di no. Insomma, sulla Roma ci posso anche stare, tutto sommato. E un saluto anche a Duccio da Cosenza, che mi scrive solamente per dirmi: scusa Spezia, volevo dirti forza Lazio. E vabbè, quest'anno ce le becchiamo tutte. Vai a casa e smetti di infettare lo studio, dice un altro ascoltatore. Non avrai beccato il coronavirus anche tu? No, devo dire la verità, ho pensato di condurre con la mascherina, però sarebbe venuta fuori una cosa di questo genere. Non penso. E speriamo che non se lo becchi Alessandro Milan, che entrerà in questo studio dopo di me. Allora, riprendiamo la rassegna stampa e veniamo alla parte centrale della nostra occhiata ai quotidiani. E prima ancora di andare su tutto il cinema interno alla maggioranza, Italia Viva e l'EU e il PD e forse Salvini e il Renzi che sono d'accordo, come scrive la stampa, beh, andiamo un po' su un po' di cose concrete, andiamoci, va. Pagina 4 e pagina 5 del Sole 24 Ore fanno la fotografia di un'agenda, questa agenda 2023, che è sostanzialmente ferma. E ci sono tutti i punti, Sono 12 punti. Prendete la riforma IRPEF. Le coperture sono il primo scoglio, sì, la riforma fiscale sarà presentata alle Camere ad aprile, così ripete sempre il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, trovando il pieno appoggio di tutta la maggioranza, ma è sul perimetro della delega che le ipotesi di intervento non sono ancora tutte allineate, e quindi si discute. Ci sono 160, per carità, e tavoli di crisi aperti allo sviluppo economico, sono 200.000 lavoratori interessati, di cui circa 60.000 a rischio di perdita del posto di lavoro, una ventina di aree di crisi industriale complessa che coinvolgono 70.000 lavoratori. Ieri c'è stato il primo tavolo sulla scuola, a Palazzo Chigi. I partiti di maggioranza si sono presentati divisi. Perché? Perché il PD vuole portare l'innalzamento dell'obbligo scolastico, lo vuole portare attualmente da 6 a 16 anni, lo vuole portare da 3 a 18 anni. Il Movimento 5 Stelle ribadisce la lotta alla dispersione scolastica e Italia Viva si intesta alla battaglia che è stata di Renzi con la buona scuola sulla valutazione del merito degli insegnanti e dei dirigenti. L'autonomia è ferma l'autonomia delle regioni che lo hanno richiesto. Il ministro Francesco Boccia vuole chiudere il primo round della partita sulle autonomie acquisendo il via libera al disegno di legge nel prossimo consiglio previsto per venerdì. Ma per il momento niente. È aperta la partita delle nomine, delle semplificazioni, si discute dello sblocca cantieri bis e niente. In tutto ciò arriva l'allarme di Nomura, quotidiano La Repubblica, a pagina 27. L'Italia già in recessione già quest'anno e il deficit salirà al 2,5%. L'effetto coronavirus, racconta Roberto Petrini a pagina 27 della Repubblica, spinge l'Italia verso la recessione e il rapporto deficit-PIL rischia di correre verso il 2,5% dal 2,2 previsto dal governo, un conto che cifra fra i 3,6 e i 5,4 miliardi. Repubblica mette anche insieme tutte le previsioni che sono state fatte sul prodotto interno lordo italiano per il 2020. La Commissione europea prevede uno 0,3%, che comunque, parliamoci chiaro, non è sto granché. L'ufficio parlamentare di bilancio dello 0,2%, il Fondo monetario dello 0,5%, la Banca d'Italia dello 0,5%, il Ministero dell'Economia dello 0,6%. Nomura, appunto, prevede un calo dello 0,1%. A preoccupare, ovviamente, è soprattutto il coronavirus, i cui effetti vengono monitorati, come si dice, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ministro Gualtieri sta pensando, almeno il governo starebbe pensando, ad altre misure per intervenire esattamente su questo fronte. Sì, a chi lo chiede, che continua a chiederlo, Nomura sono gli stessi di Monte dei Paschi, la ricorderete ovviamente la vicenda, insomma è inutile che sto qua a ricostruirvela che adesso non abbiamo tempo. Sì, sono gli stessi di Monte dei Paschi, però è una banca che solitamente diffonde di solito le questioni che hanno a che fare con i derivati sono sganciate dalle analisi macroeconomiche che vengono fatte, che sono fatte da uffici studi appositi. Questo ufficio studi appositi prevede un calo del PIL dello 0,1%. Detto ciò, che sia dello 0,1%, che sia del più 0,3%, come dice la Commissione europea, mi pare che ci sia poco da stare allegri, anche perché rimaniamo comunque in coda all'Unione europea, a tutto il resto dell'Unione europea, nonostante appunto ci sia un rallentamento generale segnalato anche da paesi a noi vicini. Bisognerà vedere quali effetti appunto avrà il coronavirus, che effetti avrà sulla Germania e conseguentemente anche su di noi. C'è poi tutta la questione più puramente politica, che ha a che fare ovviamente con i decreti sicurezza. Ieri c'è stato questo primo incontro, il titolo lo trovate un po' su tutti i quotidiani, insomma, no? È l'apertura, questa spaccatura. E questa questione abbastanza curiosa, devo dire la verità, della quale troviamo traccia un po' dappertutto, ma in particolare a pagina 3 della Stampa, ossia questa. Chi si aspettava che i primi a porre la questione dei decreti di sicurezza, la cancellazione dei decreti di sicurezza, la revisione radicale dei decreti di sicurezza sarebbero stati PD e Leu, ebbene è rimasto deluso, perché in realtà è stata Italia Viva. Che sia stato per prendere una posizione politica, no, ancora di contrasto con il resto della maggioranza, sapendo che il Movimento 5 Stelle avrebbe un po' nicchiato, che sia stato per convinzione vera, poco importa. Di fatto è quello che è successo. Nessuna decisione dal vertice di maggioranza su immigrazione e sicurezza, racconta la Stampa in un retroscena. Restano distanti le posizioni dei partiti, ma soprattutto c'è stato l'ennesimo rilancio dei renziani, che ha portato a uno stallo dei giallorossi, uno schema di gioco già visto. Ci ha pensato Gennaro Migliore, un deputato tra i più vicini a Renzi, a scuotere l'incontro di Palazzo Chigi. L'ha fatto a sorpresa con l'insistenza sul memorandum libico, italo-libico, la richiesta secca di cancellare le multe per le ONG e anche la reintroduzione del permesso di asilo umanitario. I partecipanti appunto si attendevano sul tema una decisa presa di posizione di Nicola Fratoianni di Leu. Nessuno forse si aspettava che i renziani si impadronissero delle bandiere della sinistra, e puntualmente si è irrigidito Manlio Di Stefano del Movimento 5 Stelle, sottosegretario agli esteri, che condivide la linea di Luigi Di Maio. Alla fine, un po' perché mancavano all'incontro il ministro degli esteri e quello della difesa, un po' perché l'oggetto della riunione era altro, Giuseppe Conte ha tagliato la discussione. Va bene, vorrà dire che la prossima volta parleremo, ha detto Conte, anche del memorandum. Carmelo Lauricella, ce l'abbiamo il traffico? E allora andiamo. Mattino. Ed eccoci di nuovo, dunque. i decreti sicurezza, ne trovate traccia naturalmente anche sul Corriere della Sera, pagina 8, dove c'è anche un po' un riassunto di Fiorenza Sarzanini sui punti sui quali sta lavorando la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese: impedire di trasformare il testo che cambia i decreti sicurezza in materia di scontro politico. È questo l'obiettivo, la strada da seguire per le modifiche era stata indicata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento di controfirmare il provvedimento, e dunque i nuovi decreti vanno tenuti al riparo dal fuoco incrociato interno alla maggioranza. Ma come avete sentito, dal fuoco incrociato interno alla maggioranza non vengono evidentemente protetti, tanto che appunto il quotidiano La Stampa è l'unico che lo fa nella giornata di oggi, ipotizza un accordo segreto tra l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, quindi il leader di Italia Viva, e Matteo Salvini, per arrivare a che cosa? Per arrivare a una sorta di governo istituzionale o governo di transizione, perché lo ricordiamo ancora una volta, non si può votare subito. Non si può votare subito per tutta una serie di motivi. Il primo è che c'è il referendum costituzionale, quello confermativo sul taglio dei parlamentari. Una volta avuto il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, bisognerà approntare una legge elettorale adeguata che garantisca la giusta rappresentanza. Insomma, le cose non sono facili, vanno ridisegnati i collegi. È una questione piuttosto complessa che fa sì che, insomma, non ci siano finestre utili a breve, nonostante da alcune parti si invochi il voto. E quindi l'idea, secondo il quotidiano La Stampa, che circolerebbe tra Renzi e Salvini sarebbe quella di mettersi una sorta di governo istituzionale che possa tirare fino al prossimo voto. Allora, un po' di questioni. Visto che siamo sulla politica, anche interne al Movimento 5 Stelle, perché sono anche là grandi cambiamenti dopo le sconfitte elettorali. Siamo a pagina 11 del Corriere della Sera. Quello che sta emergendo è un'idea di un ticket per la guida del Movimento 5 Stelle tra Alessandro Di Battista e la sindaca di Torino Chiara Appendino, con l'ex deputato che chiede una linea antiliberista ricevendo il sostegno di Di Maio all'operazione, mentre si discute anche delle candidature alle regionali, dove Renzi vorrebbe presentarsi da solo ovunque tranne che in Toscana, e questo lo troviamo qualche elemento un po' su tutti i giornali. E poi la questione della Campania, dove il Partito Democratico sta insistendo per la candidatura, per la ricandidatura di Vincenzo De Luca, mentre il Movimento 5 Stelle si preparerebbe a candidare, ma insomma è notizia che è circolata nelle settimane scorse, la ricorderete, e torna fuori oggi, a candidare il titolare dell'ambiente Sergio Costa, il ministro dell'ambiente, candidato del Movimento 5 Stelle per la Campania, è stato lanciato per cercare un'intesa con il Partito Democratico, ma pare che questa intesa non si trovi. Nel frattempo cambiano un po' di cose, insomma abbiamo parlato di immigrazione, però immigrazione vuol dire ovviamente anche quello che succede nel Mediterraneo e vuol dire anche come si muove l'Europa. Dunque l'Europa si muove, ma non si muove sul fronte dell'immigrazione, per quanto la questione del pattugliamento del Mediterraneo possa avere qualcosa a che fare con tutto questo. E perché? Perché ha a che fare con la Libia. Cosa succede? È successo che ieri è stata trovata un'intesa che porta alla modifica della famosa missione Sofia, la quale missione Sofia diventa una missione contro il traffico di armi verso la Libia. C'è stato prima un veto di Austria e Ungheria e poi appunto si è arrivati alla chiusura dell'operazione Sofia. Entro fine marzo partirà un'altra spedizione, lo racconta bene Alberto D'Argenio a pagina 7 del quotidiano La Repubblica. Un mese dal vertice di Berlino, finalmente gli europei trovano un accordo politico sulla missione navale chiamata ad attuare l'embargo delle armi in Libia. Questo è il risultato della riunione dei ministri degli esteri dell'Unione di ieri a Bruxelles. Non sarà la vecchia operazione Sofia a salpare, ma una nuova spedizione che opererà più a est di fronte all'Egitto, tra Creta e la Cirenaica, per bloccare il trasporto via mare di armamenti verso i belligeranti libici. E qua vi segnalo il commento di Gianluca Di Feo, proprio qua appunto sul quotidiano La Repubblica, che ha a che fare con l'analisi, per meglio dire, che ha a che fare con il rischio di scontro che si apre a questo punto con con Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco. Insomma, scrive Di Feo: eppur si muove, alla fine l'Unione Europea riesce a dare un segnale forte sulla questione libica. L'alto rappresentante per la politica estera e per la sicurezza vara all'unanimità una missione che i mattina appariva impossibile. Il tema qual è? Che a consegnare le armi non sono contrabbandieri alla Libia, ma nazioni dalla Turchia agli Emirati, dall'Egitto al Qatar. La nuova missione europea dovrà contare su navi potenti, aerei da ricognizione e satelliti spia, e sulla volontà di utilizzarli per controllare ogni cargo sospetto. Insomma, il rischio che ci sia un incidente, quantomeno diplomatico, è evidentemente abbastanza alto. Il rischio che appunto Ankara su questo se la prenda. Fatemi andare su altra notizia che ha a che fare con la politica e anche non ha a che fare con la politica, insomma ne ha a che fare in sostanza, perché riguarda la figura del Presidente del Consiglio. È l'apertura del quotidiano La Verità che parla dei documenti inviati a Banca Italia ed è diciamo un'analisi che ha a che fare con, meglio, un'operazione sospetta che è arrivata, è stata segnalata all'antiriciclaggio della Banca d'Italia. Lo scrivono Fabio Amendolara e Simone Di Meo. L'apertura è maxi sconto alla fidanzata di Conte sotto la lente dell'antiriciclaggio. Qual è la storia? La compagna del premier Giuseppe Conte, Olivia Paladino, è stata segnalata in una comunicazione di operazione sospetta all'antiriciclaggio della Banca d'Italia. E con lei sono attenzionati anche la sorella Cristiana, il fratellastro e una delle società di famiglia, la Agricola Andromeda. L'avviso all'unità di informazione finanziaria di Palazzo Koch è relativo ad un rimborso. Che tipo di rimborso? Il rimborso, e adesso ci arriviamo, nel pezzo di Fabio Amendolare e di Simone Di Meo, di un vecchio finanziamento di 1 miliardo di lire ottenuto nel 1994. Di fatto qual è l'idea? La storia? La storia è che il debito sarebbe stato dimezzato ed è stato messo in allerta l'antiriciclaggio. Nel 2017 la compagna di Conte e i fratelli hanno provato invano a chiudere con 330.000 euro un passivo di 500.000. Due anni dopo, con il fidanzato a Palazzo Chigi, la società si accorda per 145.000 e parte la segnalazione. Mi dite, soffiati sto naso, e va bene, facciamo questa operazione orrenda e pubblicamente, in maniera che si possa arrivare serenamente alla fine di questa rassegna stampa. Questa è la storia che troviamo dalla Verità. Le ultime due cose, o forse le ultime tre se ce la facciamo, abbiamo ancora un paio di minuti. Beh, La Stampa, che dedica di fatto quella che è la sua apertura a quello che è il grande tema nelle nostre campagne, non solo nelle nostre campagne, di questo inverno, e che rischia di trascinarsi ovviamente anche quest'estate, è zero pioggia da due mesi e caldo record, da nord a sud scatta l'allarme siccità, e siamo a pagina 12 del quotidiano La Stampa. Giovedì scorso una processione ha sfilato per le vie di Gibellina a Trapani dopo che il parroco ha chiesto l'intervento dell'Altissimo per il dono della pioggia. Si è arrivati a tanto nella Valle del Belice per combattere la siccità, ma l'intercessione divina per il momento non darà grandi frutti. Tra domani e giovedì è prevista una lieve precipitazione nel centro-sud, sarà passeggera, non aiuterà i campi aridi dove alcuni semi non riescono nemmeno a germinare. Gennaio 2020 è stato il più caldo nella storia della Sicilia. E riguarda, il tema riguarda anche il resto della penisola. Le dighe della Basilicata hanno registrato livelli d'acqua più bassi degli ultimi 30 anni. In Sardegna il caldo record ha fatto segnare 27 gradi, temperature mai raggiunte sull'isola a febbraio. E gli incendi sono divampati con estrema facilità. E la situazione più critica riguarda il nord-ovest. A Torino e provincia non piove da 60 giorni esatti. Il 3 febbraio il Fön ha spinto le temperature fino a 27 gradi e per trovare un bimestre gennaio febbraio così secco bisogna tornare al 1878, e questo è il dato. A chiudere, abbiamo tempo solamente per una cosa. Beh, c'è questo video che sta circolando e che dà un po' la misura, no, di quello che succede quando si subisce un'aggressione. Ce l'abbiamo, via. E che cos'è? Siamo a pagina 11 del Messaggero e con questo chiudiamo il... siamo a Roma, il tassista assalito all'alba, le urla, il soccorso del fornaio e questo video che gira di un'aggressione durata 40 minuti. 40 minuti di puro terrore, scrivono Alessandra Camilletti, Alessia Marani, appunto a pagina 11 del Messaggero, come li ribattezzerà la vittima stessa. Carica a bordo delle persone, tra queste sono tutte ubriache, tre scendono, lasciano a bordo un ragazzo di 25 anni, ecuadoriano, ubriaco pure lui, che si chiude dentro la macchina, aggredisce, vuole rubare la macchina e portarla via, e poi alla fine l'intervento del fornaio, dei passanti in attesa delle volanti, riesce fortunatamente a risolvere tutto. Pagina 11 del Messaggero con il caso di cronaca di giornata. GR24, ci risentiamo subito dopo. Dottor Spezia, buongiorno, lei è troppo simpatico, altro che virus. Buona giornata.